Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 5. Una settimana più tardi, la sorella di uno dei collaboratori di Schroeder ci diede un passaggio in macchina fino ad Alton, nell'Illinois. E lì salimmo con altri due vagabondi sul merci di mezzanotte, che aveva un vagone vuoto. Fu un viaggio pieno di scossoni e di stridori, perché il treno si fermò anche nei più piccoli e sperduti paesini dell'Illinois. Verso il mattino un frenatore ci scoprì, ma gli allungammo mezzo dollaro a testa per farlo star zitto. In tutto il viaggio incontrammo soltanto una donna, ma la sua storia ci ripagò ampiamente dei disagi che avevamo dovuto sopportare. Salì sul treno verso l'alba, durante una sosta in un paesino, insieme a due vagabondi alti e dinoccolati, che parlavano con l'accento strascicato del sud. Il frenatore ci aveva avvertito che saremmo rimasti fermi un'ora, perciò eravamo scesi a sgranchirci le gambe. Siccome cominciava a farsi un po' di luce, ci eravamo incamminati per le vie silenziose del paese, fiancheggiate da piccoli edifici di mattoni rossi, in cui si aprivano i negozi ed eravamo arrivati fino alla piazza del tribunale, che a quell'epoca era contornata da pali per legare i cavalli. Quando eravamo tornati al treno, avevamo trovato la donna e i due uomini nel nostro vagone. Si chiamava Virginia Hargraves. Era magra, minuta, e la tuta e il pesante maglione maschile che indossava la rendevano piuttosto attraente. Il marito l'aveva lasciata e lei si era aggregata a quei due vagabondi più anziani per cercare di raggiungere Chicago, dove aveva un'amica che lavorava in una casa. Ci spiegò che i due uomini l'avevano aiutata per tutto il viaggio, fin dall'Alabama. Per una parte del tragitto avevano usato i treni, ma avevano viaggiato anche per strada con l'autostop. I due uomini le avevano procurato il cibo e lei in cambio aveva soddisfatto i loro desideri sessuali. Sugli uomini in generale era abbastanza cinica. Quando il treno partì mi raccontò come aveva perso il marito durante il suo primo viaggio da vagabonda, il giorno stesso del matrimonio. Virginia aveva 17 anni e aveva trascorso tutta la vita in una cittadina della Georgia. Hargraves era figlio di un contadino che era stato privato della terra. I due giovani avevano raccimolato $5, si erano procurati una licenza matrimoniale, avevano dato 50 centesimi al pastore perché li sposasse e subito dopo la cerimonia avevano preso al volo un treno merci diretto in Alabama, dove intendevano trascorrere la luna di miele presso alcuni parenti. Il treno era già in movimento quando ci erano saltati sopra, perciò avevano dovuto accontentarsi di salire sul tetto di un vagone vuoto, usando la scaletta esterna. A un certo punto aveva cominciato a piovere e dopo poco la pioggia si era tramutata in diluvio. Allora avevano deciso di calarsi dal tetto, lasciandosi dondolare e di saltare dentro il vagone attraverso la porta. Era un numero di acrobazia che gli Obo e le sorelle della strada facevano spesso. Hargraves aveva tenuto la moglie per le mani mentre lei si calava dal tetto, penzoloni nel vuoto. Indossava una tuta da lavoro. A un tratto due braccia le avevano afferrato le gambe, aiutandola a scendere e a entrare nel vagone. Il marito aveva cercato di seguirla, ma il treno, che aveva aumentato la velocità, sobbalzava troppo violentemente ed egli temeva di non farcela. Con prudenza aveva calato una gamba, poi aveva urlato alla moglie: «Non ce la faccio, cado!» Si era tirato di nuovo su e si era disteso sul tetto, tenendosi ai bordi per maggior sicurezza. Poi si era sporto da un lato ed era riuscito a guardare dentro il vagone. Quello che aveva visto l'aveva mandato in bestia. Le braccia che avevano aiutato sua moglie a scendere appartenevano a un vagabondo e ora stavano stringendo Virginia nel tentativo di vincere la sua resistenza. Ma Hargreaves non era stato abbastanza uomo da provare ancora a fare qualcosa. Era stato a guardare mentre il vagabondo violentava sua moglie. Il treno aveva percorso un centinaio di miglia attraverso le montagne, viaggiando a gran velocità. Quando aveva rallentato a 20 miglia all'ora nei pressi di un villaggio, il vagabondo era saltato giù e quando finalmente si era fermato, Hargreaves aveva potuto scendere dalla moglie. Era fuori di sé dalla rabbia. «Non avresti dovuto lasciarmi sul tetto», aveva strillato. «È colpa tua!» Puoi andartene dove diavolo ti pare, tu. Io me ne torno indietro. E così aveva fatto. Virginia e i suoi uomini erano disposti a rischiare di imbattersi negli agenti della polizia ferroviaria di Chicago, ma il poeta di Enna era stato beccato già 3 volte in quello scalo. Perciò noi saltammo giù quando il treno rallentò a Berwyn e andammo in città con un tram. Avevamo spedito i bagagli tramite l'American Express e attraversammo il loop per andare a ritirarli in Randolph Street. Il poeta propose che ci spostassimo nel Near North Side, vicino al Dill Pickle Club e a Bughouse Square. Lì trovammo un piccolo appartamento di 3 stanze con 2 letti. Ci sistemammo e cominciammo a guardarci intorno. Per prima cosa mi misi in cerca di Mallettini, ma non riuscii a trovarlo. Scrissi al giornale di cui era direttore e ottenni una risposta evasiva. Secondo le ultime notizie che abbiamo, il compagno sta facendo un giro nel sud. Schrader mi aveva dato $50 che ci consentirono di gironzolare qua e là per la città senza far nulla per quasi un mese. Trascorrevamo gran parte del nostro tempo davanti al Drake, l'albergo che in seguito avrebbe avuto una parte importante nella mia vita. La sera ci trasferivamo nella celebre Bughouse Square davanti alla libreria Newsberry, in Walton Place, tra Clark Street e Dearborn Street, dove c'era sempre qualche oratore improvvisato che diceva cose stimolanti, in piena libertà e con la certezza di trovare un pubblico. Quell'estate, fra tutti gli oratori che parlarono nella piazza, non meno di 10 reclamarono per sé il titolo di Re degli Obo. Uno in particolare, un irlandese 70enne, con una bella testa aristocratica che si firmava Dan O'Brien, Rex, diceva sempre di volersi candidare alla presidenza, ma la sera in cui ebbi modo di ascoltarlo, dovette ammettere che se i presenti non avessero versato nelle sue tasche una bella sommetta, non avrebbe avuto un posto in cui dormire quella notte. Mi capitò di ascoltare anche altri re degli Obo. Uno era Al Kaufman, un bel ragazzo ebreo di 25 anni, balbuziente, che si vantava di aver percorso quasi 500.000 chilometri con 30 centesimi in tasca e una buona dose di sangue freddo. Un altro era Thomas Fitzgerald, un obo cinquantenne tutto rinsecchito, che nei suoi vagabondaggi aveva attraversato tutti gli stati d'America ed era stato rinchiuso in 50 prigioni diverse. Ma in assoluto il più bello tra i re degli Obo era Gus Chaffee, studioso, attore e impresario al tempo stesso. Quando qualcuno osava contestare la sua sovranità, egli citava: «Possono copiare le mie navi, ma non il mio cervello». Il più conosciuto invece era Jeff Davis di Cincinnati, alto, dinoccolato, un po' pelato, mimo e oratore di grande umorismo e organizzatore nato. Jeff Davis amava particolarmente sbugiardare gli altri re e far finire il proprio nome sui giornali o nei film. Da allora a oggi ho partecipato più volte a riunioni di vagabondi organizzate da lui e proprio pochi mesi fa l'ho visto a Pittsburgh, dove presiedeva il grande raduno OBO indetto nell'ambito del 27° congresso della International Itinerant Workers Union. Quell'estate, tra gli oratori improvvisati, vi furono anche diverse donne, ciascuna delle quali rivendicava per sé il titolo di regina degli Obo. In particolare due di loro, già avanti con gli anni, potevano considerarsi non soltanto regine dei vagabondi, ma anche vere e proprie eroine della classe operaia. Erano le vedove degli anarchici di Chicago, arrestati in seguito ai disordini di Hay Market Square e impiccati l'11 novembre del 1887. Lucy Parsons, la più nota delle due donne, mi invitò a casa sua e mi regalò una copia del suo libro, The Life of Albert Parsons, La vita di Albert Parsons. Aveva la pelle scura, color mattone, come quella di una messicana, e infatti scoprii che era nata a El Paso e che il padre era un indiano puro sangue. Gli anni le avevano incurvato la schiena, ma nei capelli non aveva quasi un filo bianco. Provai una grande emozione nel sentir rievocare i discorsi che gli anarchici di Chicago, suo marito e Louis Ling avevano pronunciato nel corso del processo che si era concluso con la loro condanna a morte. L'altra vedova era Nina Van Zandt Spies, una donna corpulenta e vivacissima che indossava una quantità di sottovesti una sull'altra, camminava con il bastone e portava un cappellaccio scialbo da cui spuntavano i capelli sempre spettinati. Un tempo era stata molto bella, mi dissero. Quando la conobbi, portava un paio di occhiali con le lenti bifocali, al di sopra dei quali lanciava occhiate scrutatrici, e aveva trasformato il suo appartamento in un ospizio per cani e gatti randagi. Anzi, correva voce che per qualche tempo, prima dell'intervento dell'ufficio di igiene, vi avesse ospitato anche un cavallo. Aveva una voce da aristocratica e il pubblico in Backhouse Square l'ascoltava incantato quando raccontava come assassinarono il mio caro innocente marito. La più popolare delle regine era Marta la Rossa, tenutaria della celebre pensione Marta Bigler. Un posto che mi ricordava molto la pensione gestita da mia madre, meglio nota come Mamma Thompson. Marta La Rossa era originaria di una cittadina dell'Illinois e aveva insegnato nella Lega Socialista. Era piccola di statura e quando io la conobbi era anche grassa, con i capelli rossi striati di bianco. Aveva lavorato come compositrice in una tipografia. Praticamente tutti i vagabondi, più o meno intellettuali, uomini e donne che erano passati da Chicago negli ultimi 20 anni, avevano soggiornato da lei. Anche noi ragazze sapevamo che se fossimo rimaste senza soldi e senza cibo, da Marta avremmo sempre trovato qualcosa da mangiare e un letto, e nessuno ci avrebbe fatto domande. Ma in quanto a notorietà, nessuna delle regine poteva competere con Lizzie Davis. Io la vidi per la prima volta quell'estate. Poi ancora a New York, ma soltanto molto tempo dopo, di nuovo a Chicago, conobbi per intero la sua storia. Grande e grossa, con le spalle larghe come quelle di un uomo, Lizzie non si poteva dire brutta, ma non era certo il tipo di ragazza che gli uomini invitano per prima a ballare. Era nata verso la fine degli anni 90 nel Tennessee. Da genitori apparentemente ineccepibili, americani al 100%, tuttavia aveva trascorso l'infanzia in un ambiente familiare agitato, scorie, lacerato. Insomma, uno di quegli ambienti che, secondo i nostri professori, contribuiscono spesso in modo determinante a creare persone disadattate e scontente. Inoltre, aveva avuto una madre nervosa, puritana, priva di esperienza. Aveva dovuto lottare sempre allo spasimo per garantire ai figli il sostentamento. Lizzie diceva di essere stata una bambina timida, fantasiosa, incompresa. Aveva nutrito sempre nell'animo una brama d'amore e di vita, e un ardente desiderio di libertà e di avventure. Ma nel piccolo centro rurale in cui viveva non c'era spazio per esprimersi. Così, a 17 anni, aveva cercato di evadere attraverso il matrimonio. Aveva scoperto ciò che molte donne imparano a loro spese, cioè che rifugiarsi nella vita coniugale per sfuggire al grigiore e alla monotonia dell'esistenza significa soltanto peggiorare le cose. Dopo varie vicissitudini si era ritrovata vagabonda sulla strada. Non c'era tipo di emarginato sociale tra quelli rappresentati negli archivi polizieschi che Lizzi non conoscesse. Ma aveva avuto contatti anche con persone assai diverse, per esempio con la categoria superiore e illustre degli studenti, e persino con professori, analisti freudiani, romanzieri. Dio che cosa non ho fatto per trovare un po' d'avventura, di amore e di pace, ripeteva spesso. Molti anni fa, quando la incontrai a Cleveland, mi raccontò la sua storia. Sono stata dappertutto, viaggiando alla maniera dei vagabondi, mi disse, sui tetti dei merci, nei vagoni vuoti, sui respingenti, in cabina con il macchinista e sul cacciapietre. Ho viaggiato anche sui treni passeggeri, dicendo al controllore che avevo perso il biglietto, nascondendomi nel gabinetto delle donne, oppure nei passaggi tra un vagone e l'altro o sul tetto dei vagoni. Ho preso al volo il 20th Century, appena fuori dello scalo della Grand Central Station. Per chi porta la sottana, fare l'autostop è uno scherzo. Guarda me, vado e vengo tra New York e Chicago come un uomo d'affari. Non ci metto mai più di 3 giorni e arrivo sempre con più soldi di quanti sono partita. Mi faccio scorrazzare fin giù a Palm Beach e a Muscle Shoals, come se fossi proprietaria di un intero parco di automobili. Non sono una bellezza e non ho vestiti eleganti, ma gli uomini mi filano e cercano di portarmi a letto, non meno di quanto facciano con le più belle, ci puoi giurare. Lizzy meritava ampiamente la sua fama. Non era come tante altre donne sulla strada che emergono dall'anonimato soltanto grazie alla notorietà dei loro amanti. E poi aveva davvero un sacco di fidanzati, una sfilza di uomini tra i migliori sulla piazza. Lizzy era un genio nel suo campo, aveva una lingua tagliente come poche e non era certo il tipo che mandasse a dire quel che pensava. Le piaceva essere franca. Conosceva le magagne di tutti, sapeva se uno era una checca o se una donna vendeva i suoi favori per denaro o per una bevuta. Conosceva i quartieri migliori per mendicare e sapeva se c'erano in giro piedipiatti ostili. Lesbiche, travestiti e pederasti non avevano segreti per lei. Qualunque cosa accadesse nel circondario, che fosse radicale, equivoca, pericolosa o sordida, Lizzy c'entrava in qualche modo. E se c'era in giro qualche nuovo sceffo, qualche tipo perverso e crudele, criminale e antisociale, Lizzy voleva farselo a tutti i costi. Il suo amore per tutto ciò che era normale, duro e sordido era pari soltanto all'ammirazione che nutriva per la buona letteratura e per la ricerca scientifica e psicologica. E la sua devozione per gli eroi della malavita era pari soltanto all'affetto che nutriva per suo figlio. Perché Lizzy aveva un figlio, o meglio, le era nato un figlio, ma in realtà non l'aveva mai avuto. Il padre del bambino conosceva Lizzy troppo bene per lasciarglielo allevare. Perciò il piccolo era cresciuto in istituti privati, aveva frequentato 40 scuole diverse in 20 stati ed era stato buttato fuori da quasi tutte. Era il figlio di Lizzy e avrebbe voluto stare con la madre, ma il padre, un tipo strambo anche lui, che se non era un truffatore criminale poco ci mancava, non badava a spese per farlo studiare e aveva sempre 5 o 10 dollari anche per Lizzy. A me Lizzy faceva venire in mente una grande locomotiva a turbina, con la caldaia sempre sotto pressione. Aveva uno straordinario sex appeal. Nonostante pesasse quasi 80 chili e vestisse sempre in modo sciatto e trasandato. Ogni tanto rubava un vestito nuovo, ma dopo 2 giorni sembrava già che l'avesse tenuto indosso per 1 mese, anche per andare a dormire. Ho sentito più di una donna dire: come diavolo è possibile che dei bei ragazzi giovani se la facciano con quella? La sua principale qualità, ciò che soprattutto la rendeva unica, era la naturalezza. Per carattere rifuggiva da ogni artificiosità e da ogni convenzione, e la sua capacità di comprendere la psicologia e i comportamenti degli emarginati aveva del miracoloso. Ad esempio, per strada si imbatteva in un gruppo di balordi e 5 minuti dopo questi le stavano già raccontando tutto ciò che sapevano. Le confessavano i loro peccati e le loro speranze. Capitava spesso che facesse amicizia con qualche prostituta, magari l'accompagnava a casa e restava a chiacchierare tutta una notte e tutta una giornata. Sovente osservava le ragazze al lavoro e studiava i trucchi del mestiere. Non aveva mai battuto il marciapiede, ma sapeva tutto sulla prostituzione. Era molto popolare, ma anche molto odiata tra gli IWW e i sindacalisti, che la invitavano spesso alle loro conferenze. Davanti a lei gli uomini potevano parlare liberamente, senza pudori. Agli ubriaconi piaceva averla intorno, perché non si sbronzava mai, e quando erano al verde sapeva come farsi dare una bottiglia a credito. Una banda di gangsters non avrebbe esitato a progettare rapine e omicidi in sua presenza, perché tutti sapevano che Lizzy non era tipo da far la spia. Non aveva paura né sospetti. Lei e la sua fiducia nelle proprie capacità di cavarsi dai guai era degna di un avventista. Una volta la polizia la colse con le mani nel sacco mentre stava svaligiando un appartamento. Il giorno seguente, guardando il giudice dritto negli occhi, Lizzy dichiarò: «Sì, mi sono introdotta in quella casa per cercare le lettere che il mio uomo ha scritto a una delle vostre insegnanti di liceo». Il giudice le credette e la lasciò libera. Il giorno seguente, però, le autorità scolastiche restituirono la libertà anche a una insegnante di liceo. Lizzy rubava anche nei negozi e lo faceva in modo così goffo che tutti si chiedevano come mai non l'avessero ancora beccata. Eppure le andò sempre liscia. Entrava in un grande magazzino, frugava in un mucchio di belle gonne, ne trovava una che le andava bene, se la infilava sotto il braccio e usciva tranquillamente. Ma non rubava soltanto i vestiti per sé. Ogni tanto, quando incontrava qualche povero straccione, uomo o donna che fosse, diceva: «Vieni che ti procuro qualcosa da metterti», e manteneva sempre la promessa. Come mendicante non era granché. Era fin troppo in carne e aveva modi arroganti, spesso insultanti. Usava una tecnica semplice. «Signore, non mi darebbe 25 centesimi?» brontolava con un sorriso abbordando uno sconosciuto. «Mi servono 50 centesimi per pagare la stanza». Chiedeva spesso la carità, ma non le piaceva. Seguiva un suo schema basilare di comportamento. Apparteneva alla stirpe delle lavoratrici americane e lavorava quando ne aveva voglia. Era stenografa e dattilografa, trovava quasi sempre impiego nelle ditte e negli uffici migliori, dove avevano bisogno di qualcuno che battesse gli indirizzi sulle buste. Lizzy riusciva a fare 2000 buste al giorno, era capace di sedersi alla macchina da scrivere e di battere per 15 ore filate. Quando si stancava di lavorare, tornava sulla strada e quando era stufa di vagabondare, cercava un lavoro. Non aveva mai pace, qualunque cosa facesse, e non c'era uomo che la soddisfacesse pienamente, per quanto ella lo amasse. Quell'estate incontrammo parecchi omosessuali, sia uomini che donne. Nel Near North Side di Chicago c'erano molte sale da tè e molte rivendite clandestine di liquori che servivano le lesbiche. Ma la maggior parte di quelle donne non mi piaceva. Entrai in confidenza soltanto con una, che mi raccontò la sua storia. Si faceva chiamare Yvonne la Zingara, Diceva di essere una zingara e di venire da una famiglia di artisti ambulanti. Era nata in Francia, a Parigi. La madre era una ballerina russa, il padre era un artista rinomato. Yvonne, che aveva studiato danza acrobatica, era venuta in America nel 1921 con una compagnia di ballo e si era esibita un po' dappertutto nel circuito Kate, quello che adesso si chiama Orpheum. Ma nel 1925 si era stancata del palcoscenico e si era messa sulla strada. Quell'anno aveva compiuto il suo primo viaggio da costa a costa, impiegandovi 18 giorni. All'età di 13 anni era stata sedotta da una donna che per 2 anni aveva vissuto insieme a lei. Da allora aveva avuto molte relazioni lesbiche di durata variabile. Aveva avuto anche un uomo e persino un figlio, che però era morto. Non le pareva che ci fosse una grande differenza tra un rapporto eterosessuale e un rapporto omosessuale. Tutto sommato pensava che per una donna fosse meglio avere rapporti eterosessuali, perché aveva più fiducia negli uomini che nelle donne. Tra le vagabonde, mi spiegò Yvonne, c'erano diverse lesbiche che di solito viaggiavano insieme, in piccoli gruppi. In genere riuscivano a ottenere passaggi e cibo senza troppe difficoltà. La maggior parte degli automobilisti si accorgeva della loro omosessualità e non si sforzava troppo di fare amicizia. Alcune di queste lesbiche erano bisessuali, cioè andavano sia con gli uomini sia con le donne. Ve n'erano poi altre che si prostituivano agli uomini per denaro, ma avevano amanti di sesso femminile. A Chicago molte delle lesbiche cacciavano in branco e viaggiavano in automobile. Alcune di loro avevano un magnifico appartamento in North Dearborn Street, vicino al parco. Una sera vi organizzarono una festa che chiamarono Mickey Mouse Party e così ebbi modo di conoscerne diverse. C'era anche un piccolo gruppo di donne piene di soldi, erano una mezza dozzina, di cui 4 legalmente sposate e 2 anche con figli. Si comportavano ostentatamente come se fossero venute soltanto a curiosare, ma in realtà nutrivano qualcosa di più che un interesse superficiale per quelle lesbiche. Per questo erano oggetto di uno sfruttamento continuo. Le lesbiche prendevano i loro nomi e indirizzi e poi avrebbero chiesto loro dei soldi di 100. Ci siamo conosciute al Mickey Mouse Party! Oltre al re e alle regine, centinaia, non decine, centinaia di vagabondi tenevano discorsi nella piazza sbronzi o sobri, coperti di stracci e spesso incapaci di esprimersi in un inglese decente. Riuscivano comunque a radunare una piccola folla disposta ad ascoltarli. Molti discorsi cominciavano così: quando ero a Leavenworth, oppure quando ero in galera a Detroit, oppure quando mi avevano schiaffato dentro a New York, e ancora, compagni lavoratori, sono appena tornato da un giro sulla strada, oppure sono 17 anni che non lavoro, sto a ricovero. E molti oratori esordivano dicendo: in queste ultime 3 settimane ho dormito nel Grand Park. Gli obo raccontavano le loro storie, ma anche tutti gli altri parlavano di vagabondaggi e di disoccupazione. Tra gli oratori abituali ve n'erano parecchi dotati di uno stile brillante. John Barnes, un tipo alto e dinoccolato, con un viso che pareva tagliato con l'accetta, aveva un modo di parlare energico ed efficace. Sembrava un politico, e infatti seppi che spesso durante la campagna elettorale faceva propaganda per il Partito Repubblicano. Capiva la psicologia dei vagabondi, dei gangster e dei criminali e sapeva spiegarla. Happy Jimmy Rowan, un veterano degli IWW, raccontava in modo convincente le peripezie dei vagabondi di un tempo. David Tulma, un ebreo basso e tarchiato che portava occhiali con la montatura di corno, sapeva di storia, di economia e di psicologia e discorreva di questi argomenti con acume e con spirito, sfoggiando una cultura enciclopedica. Anche lui aveva molto da dire sugli obu. Tutto ciò era assai istruttivo. In Bughouse Square e altrove gli obo e i vagabondi erano i principali argomenti di discussione. Dopo le riunioni in strada nella Bughouse Square, al Bug Club in Washington Park o in qualsiasi degli altri luoghi di ritrovo, molti degli oratori e degli ascoltatori si trasferivano nella Penny Caffetteria o in casa di qualche amico. Lì si parlava per ore, spesso per tutta la notte. Pochi degli oratori lavoravano e tutti potevano dormire fino a tardi. Noi donne trascorrevamo spesso la notte su un prato, oppure ci arrangiavamo dove capitava. Quell'estate Ena e io dormimmo in una ventina di case e di locali diversi, ma riuscimmo sempre ad avere una stanza solo per noi. Molte volte portavo a casa con me altre ragazze e ogni tanto veniva un uomo. Chicago continuava a essere una specie di quartier generale di donne e ragazze di ogni sorta, dedite al vagabondaggio. Arrivavano in autostop cotte dal sole, vestite di tela cachi, oppure indossavano tute da lavoro maschili sbrindellate e arrivavano viaggiando nei carri merci, sui tetti dei postali, nei vagoni frigorifero e nei vagoni ciechi sui treni passeggeri. C'erano anche quelle che guidavano fin lì le loro sgangheratissime Ford o si facevano scarrozzare nel sidecar di qualche amico motociclista vagabondo. Alcune avevano addirittura la bicicletta, venivano da ovest e da sud, da est e da nord, persino dal Canada. Tutte facevano capo a Near North Side, alla Bughouse Square, dove potevano alloggiare in modeste stanze d'affitto o trovare una sistemazione a servizio di qualche famiglia, oppure chiedere o accettare l'ospitalità di altri uomini o donne arrivati prima di loro. Alcune si pagavano il viaggio in autobus o in treno, ma poi restavano al verde e dovevano elemosinare un po' di cibo e un letto da uomini che fossero temporaneamente in grado di mantenerle. Ne ricordo qualcuna che si era imbarcata come clandestina sulle navi che attraversavano il lago e persino una che era riuscita a viaggiare a sbafo su un aereo da Filadelfia. Non poche infine si facevano pagare il viaggio dalle organizzazioni assistenziali alle quali facevano credere di avere parenti disposte a ospitarle. Quasi tutte arrivavano in condizioni pietose, lacere, sporche e affamate, e la metà era anche malconcia fisicamente. Capitava magari che qualche poveretta, già in avanti con gli anni, viaggiasse sui merci per tutto il paese sopportando terribili mal di denti. A Chicago poteva andare all'ospedale, dove non la curavano gratuitamente, ma perlomeno le estraevano le vecchie radici, ormai marce. Alcune vagabonde erano palesemente malate, ma quasi nessuna si decideva a curarsi, finché i dolori non diventavano insopportabili. La maggior parte di queste donne, e direi la quasi totalità delle donne della strada, viaggiava in coppia con un uomo, compagno per amore o per caso, oppure con un'altra donna. Qualcuna viaggiava con il marito e con i figli, oppure con un fratello. Ogni tanto si incontrava un gruppo di studentesse. C'era poi qualche donna che andava in giro da sola con un gruppo o con una banda di uomini. Ma in genere queste ultime erano donne dure, prepotenti, disposte ad avere rapporti sessuali con qualsiasi membro del gruppo e che perciò non dovevano preoccuparsi di cercare cibo e un posto per dormire. In quei primi anni non ricordo di aver visto molte coppie di lesbiche sulla strada, ma naturalmente oggi accade più frequentemente di imbattersi in coppie di donne legate sentimentalmente l'una all'altra, che tuttavia, mentre sono in viaggio o durante le soste, si concedono ad altri uomini e ad altre donne in cambio di cibo, di un passaggio, di ospitalità. Le vagabonde che conobbi erano cresciute negli ambienti familiari più diversi. Tuttavia, fin da quella prima estate, intuì ciò che ora, dopo tanti anni, so con certezza. Le donne che si mettono sulla strada provengono soprattutto da famiglie disastrate. Sono figlie di genitori divorziati, oppure hanno vissuto con un patrigno o con una matrigna, o sono rimaste orfane di entrambi i genitori e hanno vissuto con gli zii o con i nonni. Circa la metà delle vagabonde ha alle spalle vicende familiari di questo genere. Molte altre, ho scoperto, sono reduci dagli orfanotrofi, rinchiuse e tenute lontane da ogni forma di attività per tutta l'infanzia. Queste ragazze hanno sognato di viaggiare e di vedere il mondo. Perciò, appena possono lasciare gli istituti, scelgono il modo più rapido per realizzare i loro sogni e si danno al vagabondaggio. Non poche vengono dalle prigioni e dai riformatori, anch'esse scelgono la libertà della strada, a qualsiasi costo. Tra loro vi sono anche molte donne dimesse da istituti di cura per malattie psichiche e mentali. Negli anni che ho trascorso a Chicago e in giro per il paese, ho parlato con centinaia di vagabonde. Mi hanno sempre affascinato i modi in cui riuscivano a cavarsela sulla strada senza il becco di un quattrino. Molte lavoravano di tanto in tanto, facevano le dattilografe o le archiviste e si portavano sempre appresso le referenze ottenute dalle ditte presso le quali avevano trovato impiego. Quella prima estate ne conobbi una che aveva il diploma di infermiera. L'unica cosa che portava sempre con sé era il vestito buono da indossare nel caso le fosse venuta voglia di cercare lavoro. Seguiva un paziente o magari anche un paio, tanto da mettere insieme qualche soldo. Poi rimetteva via il vestito buono e ricominciava a fare l'autostop indossando un paio di pantaloni. Ma la maggior parte delle vagabonde non faceva neanche finta di lavorare. Neppure quando restava ferma per settimane o addirittura per mesi, come accadeva a Chicago e nelle altre grandi città. Ho già spiegato come le donne si arrangiassero chiedendo l'elemosina, rubando, prostituendosi o sfruttando le organizzazioni assistenziali. Naturalmente oggi ci sono posti di ristoro statali, uffici federali per i lavoratori migranti e uffici per l'assistenza ai vagabondi un po' ovunque nel paese. Ma ai vecchi tempi erano le missioni religiose e le organizzazioni private di beneficenza a occuparsi dei vagabondi e soprattutto delle donne. Certe vagabonde sapevano bene quali erano le parole e gli atteggiamenti giusti per farsi salvare e usandoli nel modo appropriato riuscivano sempre a procurarsi una scodella di minestra acquosa, una tazza di caffè e un tozzo di pane. Cioè tutto quello che passava il convento nel nome del Signore. Alcune si inventavano storie dettagliatissime sui propri antenati ebrei, pur essendo irlandesi, e riuscivano a farsi aiutare dalle organizzazioni ebraiche, oppure si inventavano una famiglia di religione cattolica, pur essendo ebrei, per farsi aiutare dalle missioni cattoliche. Altre invece avevano imparato il linguaggio di varie logge e confraternite e spacciandosi per figlie, sorelle o nipoti di membri inesistenti di logge massoniche, degli Alci, dei Boscaioli e dei Kiwaians, ottenevano cibo, vestiti e denaro. Ma le donne obo, che ricorrevano a questi trucchi, erano una minoranza. La maggior parte non ne sarebbe stata capace. Moltissime invece chiedevano l'elemosina nei negozi, nei ristoranti, alla gente che incontravano per strada o sul marciapiede della città. E molte non si curavano neppure di elemosinare una stanza in cui dormire. Se il tempo era buono, trascorrevano le notti nei parchi, insieme agli uomini o sdraiate al loro fianco, e al mattino andavano a lavarsi nei gabinetti delle biblioteche o di altri edifici pubblici. Anche nel Near North Side c'erano decine di persone alloggiate in studi o in stanze d'affitto che non avrebbero mai permesso a una di loro di entrare a fare un bagno o a darsi una lavata. Uno dei posti più volgari, malfamati e sconci in cui si riunivano era il locale di Toby. Toby gestiva uno spaccio clandestino in Hill Street, vicino alla sopraelevata, e in quella parte dell'inferno non si poteva trovare un ricettacolo di esseri umani peggiore di quello. Toby era un ribelle, un libero pensatore. Era duro e volgare, un uomo crudele e cattivo che faceva paura. Le espressioni oscene e sordide che vomitava e il modo umiliante in cui trattava le sue donne erano al di là di ogni descrizione, e tuttavia dubito che anche il più aristocratico appartamento del più ricco scapolo sarebbe riuscito ad attrarre un eterogeneo assortimento di intelligenze e di talenti come quello che frequentava la bettola di Topi. Molti dei più noti leader operai, quelli che non solo credevano alla violenza, ma la praticavano anche, venivano da Toby a bere e a fare casino, ma era facile trovarci anche illustri professori e uomini di lettere. Anche i poeti, quelli veri, i cui libri rappresentavano qualcosa per la comunità, venivano spesso. Non dimenticherò mai la prima sera che Lucille Donoghue, la moglie del famoso reporter Jerry Donoghue, mi ci portò. Nel locale, affollato di clienti mezzi ubriachi e di donne completamente sbronze, c'era un'aria greve. I due uomini gravidi, rapinatori, che conobbi quella sera furono ammazzati dalla polizia poco tempo dopo. Quanto a Toby, con la sua mascella dura e il suo sguardo penetrante, lo detestai fin dal primo momento. Mi fissò con un'espressione lasciva e dopo neanche 5 minuti cercò di infilarmi le sue sudice manacce sotto il vestito. Verso mezzanotte due taxi si fermarono davanti al locale e scaricarono un gruppo di attori e giornalisti. Tra gli altri c'era Earl Ford, che recitava in The Front Page, e alcune star di My Maryland. Nel locale non c'era un pianoforte, ma si faceva sempre musica. La modestia e la decenza erano bandite, ma l'attività intellettuale era sempre viva e genuina. Scoprii con stupore che Toby l'ubriacone, il violento, era capace di una grande lucidità di pensiero. Dopo aver trangugiato una pinta di whisky di contrabbando, Earl Ford recitò una parte di La ballata del carcere di Reading. Io me ne andai con un gruppo di attori. Ena non volle venire, e quando il suo poeta cercò di trascinarla via, Toby gli ruppe sulla testa una sputacchiera di porcellana. Praticamente in tutte le grandi città che ho visitato, eccettuate quelle del sud, c'erano le cosiddette università dei vagabondi, i consigli dei disoccupati, le tribune radicali, ovvero i centri culturali organizzati specificatamente per i vagabondi e i disoccupati. Non erano una novità per me. Tuttavia, a Chicago, nella vecchia sede di una banca all'angolo tra Washington Street e Des Plaines Street, c'era il centro più interessante di tutti. Il direttore era un medico e il sovrintendente era John Barnes, l'oratore della Bughouse Square, di cui ho già fatto cenno. Per mesi frequentai regolarmente le riunioni. Ce n'erano 3 al giorno, una alle 10 del mattino, una alle 3 del pomeriggio e una alle 8 di sera. Lo staff dell'Università dei Vagabondi era formato da uomini con le esperienze più diverse, alcune delle quali non avevano nulla in comune con la pratica del vagabondaggio. Fu lì che non solo ascoltai, ma conobbi Richard Bennett, l'attore. Ci fece un discorso interessante e spiritoso, poi invitò tutti i presenti ad assistere al suo spettacolo. Recitava in They Knew What They Wanted e ci parve bravissimo. Dopo lo spettacolo ci riunimmo a festeggiare nel suo camerino e ci divertimmo un monte. Mary McCormick cantò per noi all'università, poi diede $50 al sovrintendente affinché comprasse da mangiare a tutti. Vennero anche Gilda Gray, la ballerina, e suo marito, che le faceva anche da manager. Prima i due artisti danzarono e cantarono per noi, poi il marito di Gilda prese un taxi e ci portò delle magnifiche torte, acquistate nella migliore pasticceria della città, e un intero bidone colmo di caffè fumante. C'erano anche parecchi scrittori tra i conferenzieri dell'università. Jim Tully, ad esempio, che venne e fece un discorso arrogante. Basso di statura, con i capelli rossi e un'aria feroce, Jim aveva spesso atteggiamenti teatrali. Quella volta portò con sé Daniel Hennessy, un giornalista che aveva scritto molti bei libri sugli hobo per la collana dei Little Blue Books dell'editore Haldeman Julius. Anche il professor Nels Anderson, autore di The Hobo e di molti altri testi universitari di sociologia, tenne una conferenza da noi. Aveva un viso dai tratti irregolari, forte e risoluto. Aveva anche un modo tutto suo di raccontare aneddoti divertenti, ma ricordo soprattutto l'espressione dolce e tollerante che aveva sulle labbra e nella voce quando parlava della vita sulla strada e delle cose che tutti, sia lui che noi, avevamo fatto e ancora facevamo. Altrettanto interessante fu la conferenza del professor Edwin Sutherland, autore di uno splendido libro sui criminali. Oltre a quelli che ho citato, potemmo ascoltare alcuni tra i più rinomati professori e sociologi americani: il professor E.A. Ross di Madison, il professor A.W. Burgess dell'Università di Chicago, il professor Herbert Blumer, segretario dell'American Sociological Society. Il professor Blumer era un ex campione universitario di football e aveva un fisico massiccio, imponente, che contrastava con l'espressione colta e i modi garbati. Se menziono tutti questi nomi illustri è per mettere in chiaro che gli hobo non erano soltanto una massa di bifolchi ignoranti, al contrario avevano interesse per le conferenze e per ogni forma di arricchimento culturale, che sapevano comprendere e apprezzare. Tanto più che oltre a invitare nelle loro università gli insegnanti migliori, i professori più intelligenti e gli educatori più capaci, gli stessi hobo si dimostravano capaci di una sempre maggiore chiarezza speculativa ed espositiva. Gli insegnanti di gran lunga più brillanti e gli oratori più convincenti tra tutti quelli che tenevano lezione all'Università dei Vagabondi erano dei nostri. Uno di loro era Franklin Jordan, l'uomo che poi divenne il mio grande amore. Benché vedessi Jordan tutti i giorni e mi fossi innamorata di lui, sin dal primo istante passò molto tempo prima che i nostri rapporti si facessero intimi. Quel primo anno a Chicago cambiai diversi posti di lavoro. Prima fui assunto come dattilografa da una grande organizzazione di vendita per corrispondenza, poi da un uomo politico per il quale battevo gli indirizzi sulle buste. Infine entrai come impiegata nello studio medico della dottoressa Hope Stone. La dottoressa Stone e io ci eravamo conosciute in una tribuna radicale e subito avevamo provato simpatia l'una per l'altra. Era stata lei, una donna poi piccola, con lineamenti regolari e modi risoluti, a chiedermi se volevo lavorare alle sue dipendenze. Aveva un'enorme quantità di lavoro e gestiva uno studio formato da un vasto complesso di uffici in un grande palazzo del centro. Oltre alla sottoscritta, il suo staff comprendeva una segretaria, un'infermiera, un'impiegata di fiducia, sua sorella che si occupava della contabilità e due assistenti. La dottoressa era un abortista. Ora operava in proprio, ma in passato era stata assistente del dottor Cooper. Correva voce che nei suoi 30 anni di attività come specialista in aborti il vecchio dottor Cooper avesse praticato in media 10 raschiamenti al giorno. Non vi sono prove al riguardo, tuttavia, se l'ipotesi fosse vera, nel breve arco della sua vita egli avrebbe continuato da solo a ridurre la popolazione di 100.000 anime. E anche se le cifre reali fossero pari alla metà o a un quarto di quelle ipotizzate, egli avrebbe totalizzato ugualmente più di 25.000 aborti. Alcuni esperti che conoscono bene le dimensioni di questa attività in America mi hanno detto che altri abortisti hanno effettuato un numero di interventi anche maggiore. Nelle 6 settimane in cui rimasi alle dipendenze della dottoressa Stone, non scendemmo mai al di sotto delle 25 pazienti al giorno. Anche se soltanto i 2/3 venivano operate, gli interventi quotidiani erano pur sempre una quindicina. Sullo stesso piano della dottoressa Stone avevano lo studio due altri abortisti e nel medesimo palazzo ce n'erano altri quattro. Nessuno vide mai la dottoressa Stone operare. Quando una paziente arrivava in studio, passava subito da me, che annotavo il suo nome, il suo indirizzo e le chiedevo chi l'aveva mandata da noi. La dottoressa Stone doveva una buona parte delle sue clienti alle raccomandazioni di altri colleghi. Teneva un piccolo ufficio accogliente in fondo al corridoio, lontano dalla sala operatoria, apposta per ricevere i dottori che le inviavano pazienti, gli offriva loro da bere e saldava i conti per i servigi resi. Esaurite le prime formalità, introducevo la paziente nell'ufficio della segretaria, dove venivano discussi gli aspetti economici della questione. Insomma, si parlava di soldi, ma non in modo freddo e brutale. La dottoressa Stone era una donna generosa, spesso operava gratuitamente. Talvolta era lei stessa a dare di tasca sua qualche soldo alle pazienti più squattrinate. Quando si raggiungeva un accordo soddisfacente, e si cercava, se possibile, di farsi pagare in contanti, magari anticipatamente, la paziente passava in ambulatorio per la visita. In 6 settimane vidi passare più di 600 pazienti. La tariffa media era di $50, ma spesso si riduceva a 25. Molte volte invece saliva a 75 e qualche volta a 100. Capitava anche di chiedere 150 o $200, ma non era raro che ne incassassimo soltanto 10, oppure niente del tutto. La dottoressa Stone visitava tutte le pazienti personalmente. Questa pratica non è assolutamente rischiosa, basta saper scegliere le pazienti, mi spiegò. Nelle interruzioni di gravidanza, la maggior parte dei decessi è causata da infezioni e finora non me ne sono mai capitate. La nostra sala operatoria entra soltanto personale sterile e le pazienti vengono preparate con la massima attenzione. Le visito tutte personalmente e faccio sempre loro uno striscio. Se una paziente è infetta, non la opero. Non accetto neppure le donne che hanno superato il quarto mese e mezzo, a meno che non possano farsi ricoverare in ospedale, e non opero le pazienti troppo deboli, affette da tumori o da altre malattie. Ogni giorno mando via una mezza dozzina di clienti e per quelle non ci sono soldi o raccomandazioni che tengano. Chiunque fossero le clienti, ho visto donne accompagnate dal marito poliziotto e funzionari che accompagnavano le loro stenografe. La dottoressa aveva sempre un colloquio personale con loro. Non temeva di farsi identificare come abortista. Se le clienti avevano i soldi per pagare ed erano in condizioni fisiche tali da poter subire l'intervento, le accettava come pazienti. Tutti gli inquilini del palazzo erano al corrente della sua attività. Anzi, sembrava che in città nessuno la ignorasse. Chiesi alla signora Jensen, una delle sue infermiere, se non fosse pericoloso agire così allo scoperto. Certo, è pericoloso, confermò. La polizia e le autorità municipali sanno quello che succede qui dentro, ma prima o poi capita a tutti di aver bisogno di un'abortista brava e affidabile. La dottoressa Stone è scrupolosa, capace e non fa pagare molto. I funzionari dei tribunali e gli uomini del pubblico ministero mandano qui le loro amiche in difficoltà e la dottoressa le opera gratuitamente. Dicono che paghi grosse tangenti, ma io credo che la protezione da parte dei potenti di turno non le costi più che questo. Sono con lei da 5 anni e in tutto questo tempo abbiamo avuto soltanto 4 decessi, cioè molti di meno rispetto a quelli che avrebbe avuto un medico qualsiasi con metà delle nostre pazienti, e neppure un quinto di quelli che avrebbe avuto un ginecologo se avesse cercato di portare a termine un numero di gravidanze pari ai nostri interventi. È difficile dire quante erano in percentuale le donne sposate tra le pazienti della dottoressa Stone. Quasi tutte mentivano. Le donne sposate dicevano di essere nubili e le nubili dicevano di essere sposate. Tuttavia credo che fossero circa la metà. Credevo che la dottoressa effettuasse personalmente tutti gli interventi. Scoprì invece, con sorpresa, che non ne faceva neanche uno. Visitava le pazienti e poi, se tutto era a posto, le conduceva in un'altra stanza e le copriva con un lenzuolo fin sopra la testa. A quel punto subentrava una delle assistenti che eseguiva materialmente l'intervento. Spesso le pazienti venivano anestetizzate con il gas e in quel caso non potevano sapere quanto durava l'operazione. Libri ribelli. Libri ribelli.